Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Noi, lo sapete, ci occupiamo di lavoro visto dal punto di vista delle donne che lavorano in tutti i settori e cerchiamo anche di ricordare prima di tutti a me stessa, prima di tutto a me stessa, che lavorare va bene, fare tante cose anche talvolta è inevitabile, ma farci del male con un eccesso di multitasking è veramente una fregatura. Questa domenica ci occupiamo di qualcosa che ha a che fare con la dimensione della vita più che con quella del lavoro, la dimensione della vita di coppia, la dimensione delle relazioni uomo-donna. Lo sapete, il 25 novembre scorso si è celebrata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e c'è stata in Italia una grande, bellissima manifestazione a Roma. La giornata, lo sapete, è stata istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1999 per ricordare il brutale assassinio di tre sorelle, le sorelle Mirabal, nella Repubblica Dominicana del dittatore Trujillo nel 1960. Ma non c'è solo la violenza che scoppia, che esplode in dinamiche politiche estreme, c'è la violenza quotidiana, la violenza fisica e la violenza morale che tante donne non si rendono nemmeno conto di subire. Ed è di questo che parliamo oggi, qui, a Nessuna è perfetta. Sono curiosa di sapere cosa pensa della violenza fisica, verbale, della dimensione generale che questa condizione psicologica grava su tante donne giovanissime e meno giovani, e sono molto curiosa di sapere cosa pensa l'agente provocatore di questa nostra domenica, che al tema politica e sessismo ha dedicato un libro, Sta zitta e va in cucina. Benvenuto, buona domenica, Filippo Maria Battaglia, giornalista di Sky TG24 e autore del libro che citavo poco fa, Stai zitta e vai in cucina, pubblicato da Boringhieri. Buona domenica, Filippo. Buona domenica, grazie. Ecco, per citare anche la violenza verbale, quella dei social media, la Presidente della Camera, Laura Boldrini, ha reso noti i nomi e i cognomi di chi le rivolge quotidianamente insulti sui social. Spesso si tratta di donne. E una di queste è stata appunto citata, Maria Feliziani, è invitata da Laura Boldrini alla Camera, ma non è andata perché ha capito che la rabbia sfogata sui social media non era cosa di cui essere fieri. Le donne sono le prime che cercano di sminuire le altre se vedono che hanno successo, se vedono, se riconoscono in loro donne forti? Purtroppo è vero questo, è una lunga storia che inizia sin dal dopoguerra, quando arriva il suffragio universale ci sono centinaia, migliaia di dichiarazioni di donne che finiscono sulla carta stampata, che raccontano come non siano poi così convinte di votare altre donne come proprie rappresentanze, semplicemente perché non le ritengono adeguate. Il maschilismo, essendo un problema culturale, è un problema a noi trasversale, che riguarda i maschi ma riguarda a volte anche le donne. Questa tendenza oggi è abbastanza residuale, per fortuna, ma è ancora presente nella società come scoria quasi culturale di un passato che ancora è troppo ingombrante, troppo difficile forse da elaborare. Le donne si fanno un po' manipolare, no? Spesso dagli uomini che, secondo il secolare principio divide et impera, poi su questo ci giocano. Però a volte sono proprio direttamente gli uomini. Oggi sui social network, prima, come racconti tu nel tuo libro Stai zitta e stai in cucina, e vai in cucina, l'hanno fatto anche dichiaratamente. Qual è, tra le tante cose che hai raccolte nel tuo saggio, forse l'aneddoto più curioso e anche più simbolico di questo tipo di violenza psicologica, verbale, che fa danni, lo ricordo, perché spesso non ne siamo consapevoli, tanto quanto la violenza fisica, quanto le botte? Nell'autunno del 1947, Assemblea Costituente, si discute uno degli articoli cardine della nostra Costituzione, quello che nessuno vuole toccare, l'articolo 37 relativo ai diritti della donna lavoratrice. Si alza a parlare una delle più eminenti figure del Partito Comunista, si chiama Teresa Noce e non è una donna avvenente. Sta per prendere la parola per quello che sarà un suo articolo, una sua creatura, una norma cardine della nostra Costituzione, e viene interrotta da un deputato che le urla: Teresa, sei bella come un fiore, aggiungendo come un fiore di rafflesia e spiegando che quel fiore pesa 7 kg e puzza di carne putrefatta, tra le risate e le date di gomito di moltissimi dei costituenti. Ecco, quell'episodio a me ha fatto molto riflettere, non solo per la battuta becera, ma soprattutto per la solidarietà che quella battuta ha raccolto in un'assemblea costituente che noi spesso siamo soliti pensare come un luogo di eletti, certo, di grandi intellettuali. In realtà l'Italia politica è stata anche questo. E mi viene da dire che molte cose sono cambiate, abbiamo l'intelligenza artificiale, abbiamo le auto che probabilmente si guideranno da sole, ma la battuta becera ad una collega in politica resiste sempre. Pochi giorni fa il governatore della Campania, De Luca, si è reso appunto protagonista di una battuta anche più che becera, un po' inquietante nei confronti di Rosy Bindi. Devo dire che dunque il tuo saggio, Stai zitta e vai in cucina, è purtroppo, per quanto riguarda la politica, sicuramente attuale. Sì, purtroppo, per restare alla sola Rosy Bindi, le battute sono infinite, non solo le barzellette, blasfemi di Berlusconi o le uscite di De Luca, ma magari pochi si ricordano che il Presidente Emerito della Repubblica, Francesco Cossiga, insultò Rosy Bindi dicendo: pensavo che fosse brutta ma intelligente, invece è brutta, cattiva e cretina, ribadendo ancora l'aspetto fisico. L'aspetto fisico può essere utilizzato o in senso negativo oppure in senso, cioè viene utilizzato sempre in senso negativo, o perché si è troppo brutte al giudizio degli uomini o perché si è troppo belle. Basti pensare a quello che è successo alla ministra Maria Elena Boschi, o nel passato, nel 1948, una deputata comunista che si chiamava Laura Diaz, che entra in Parlamento prendendo 40.000 preferenze. La prima domanda che i cosiddetti giornali moderati si fanno è chiedersi da dove arrivino i quei voti, arrivano dall'aspetto fisico o dalla capacità e dalla bravura politica, spiegando candidamente che le due cose in una donna non sono poi così facilmente distinguibili. Ecco, poi naturalmente in questo le cose sono molto cambiate e onestamente non si può dire che l'aspetto fisico non giochi una parte anche, certo, nel successo, visto che la politica è diventata molto immagine, molto televisiva. Senta, Filippo, per chiudere e per tornare al tema di una violenza che non è purtroppo solo verbale, ma è spesso anche fisica. Ci sono stati, nella tua esperienza di, appunto, di saggista, episodi in cui la violenza da psicologica e verbale è diventata addirittura fisica in politica contro una donna che si stava dimostrando particolarmente agguerrita? Ci sono stati, diciamo, dei presupposti teorici che anche in questo caso arrivano da mittenti inaspettati. Negli anni 50 un giornale pre-femminista, proto-femminista, si interroga sulla violenza delle donne e chiede ad alcuni intellettuali e senatori cosa ne pensano, insomma, delle donne che vengono picchiate dai mariti, dai in famiglia, la violenza nei confronti della donna. Ce n'è uno, Concetto Marchesi, un senatore comunista e uno dei latinisti più illustri dell'Italia del Novecento, che oltre a condanna la violenza, ma poi aggiunge: a volte però un paio di schiaffoni alle donne si possono anche dare, se sono proprio loro a volerle le botte. Ecco, in quel se proprio sono loro a volerle le botte, forse è racchiuso davvero uno dei problemi dell'Italia degli anni 50, che forse allora era maggioritaria, ma che ancora oggi nella testa, purtroppo, di molti uomini è ancora presente. E purtroppo stiamo parlando dell'Italia del 2016, dove si è appena consumata, lo diciamo, la giornata contro il femminicidio, che ha visto in questi anni non soltanto picchiare, ma morire tante donne per questo malinteso senso del possesso. Ma ne parleremo tra poco con la nostra Sunday Girl. Io ringrazio Filippo Maria Battaglia e vi ricordo questo interessante saggio pubblicato da Boringhieri: Stai zitta e vai in cucina. Buona domenica, Filippo. Grazie e buona domenica a voi. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Nessuna è perfetta. Eccoci, bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, e questo è il momento della nostra Sunday Girl. Benvenuta, buona domenica, Elena Sofia Ricci, attrice nelle sale con L'amore rubato, un film corale tratto dall'omonimo libro di Dacia Maraini. Sono cinque donne protagoniste, e il filo rosso che lega tutte queste storie è la violenza, che non conosce ceto né età. No, né ceto né età né modo di esprimersi, ahimè, perché la violenza di genere è trattata in tutti i modi, anche quella psicologica oltre che quella fisica, perché da quella poi parte tutto. Ci siamo sentiti, siamo un nutrito gruppo di attori e di attrici, e devo dire molto del merito va anche a tutti gli attori maschi che hanno partecipato e si sono... Li raccontiamo chi sono? Beh, sono tanti, c'è Francesco Montinaro, c'è il mio compagno di Cesaroni, Antonello Fassari, c'è Alessandro Preziosi, ci sono dei ragazzi, ma c'è, non so, Antonio Catania, tanti che hanno voluto partecipare anche per un piccolo ruolo, non so, Cecilia Dazzi, grandissime attrici che hanno voluto per forza, sono troppi gli attori, adesso non vorrei mancare di rispetto a nessuno. Non possiamo fare l'elenco. Sì, non posso fare l'elenco perché siamo veramente tanti. Ma il tutti tema della violenza li ha trovati tutti, diciamo, tutti sensibili. Siamo corsi a partecipare la storia, a questo progetto. La storia che racconti tu. La storia che racconto io è la storia di Angela. Angela è una donna grande, insomma, no? Si va dalle ragazzine, dall'adolescenza, dalle studenti fino alla maturità. Diciamo, il mio personaggio è la storia di una donna matura, più grande di età, che è rimasta sola, che è sola, che non ha figli, non ha niente, e che è così, che cede alle lusinghe di un tenerissimo giovane uomo che la comincia a corteggiare in maniera anche un po' goffa, perché non è esattamente un uomo coltissimo, preparatissimo, lei è professoressa al liceo, insomma, quindi ha una certa cultura, e su questo gap, no, culturale si scatena la frustrazione di Gesuino, che è il ruolo di Massimo Poggio, che è il mio partner, che anche lui generosamente si è prestato a fare questo film, e tutti bravissimi. In che modo si scatena la frustrazione? Cioè il non sentirsi adeguato, il non sentirsi alla pari, il non sentirsi... Cioè questo ragazzo prima la colteggia e poi la perseguita? Sì, inizialmente la corteggia, poi le lascia le rose, le lascia i bigliettini, poi è geloso, diventa geloso, non si sente all'altezza degli amici di Angela, che è una donna, diciamo, emancipata, una donna moderna che comunque va a cena con gli amici, anche di sesso maschile. Per lui questa cosa è difficile da tollerare, no? Questo è segno di una grande insicurezza, di una grande frustrazione, di un'assenza di centro da parte dell'uomo. Ecco, è bello questo film perché ogni personaggio maschile non viene solo giudicato, no? Si fa presto a dire sono tutti mostri, è vero, sono dei mostri e non c'è giustificazione alcuna, ma sono persone con grossi problemi di tipo psicologico alla base, culturale. Lo so, Elena Soffierici, possiamo trovare in questo film una soluzione? Perché non è che si possa psicanalizzare una intera generazione di maschi, o due o tre. Quindi come dovrebbe lavorare su questi uomini? Guarda, le cose sono tante. Molto dipende da noi donne anche, paradossalmente, noi mamme. Le mamme e anche i papà, però, no? Cioè, molto importante è l'educazione al sentimento. Non c'è educazione al sentimento, non c'è l'educazione sessuale nelle scuole, cosa che c'è in molti paesi europei. Noi in Italia siamo molto indietro al riguardo e siamo ancora vittime di una storia che avanza molto più rapidamente di quanto l'intelligenza emotiva di ciascuno di noi non riesca a stare al pari. Cioè, noi uomini abbiamo mandato avanti la storia del nostro paese in maniera molto molto rapida, ma non sappiamo adeguarci emotivamente a quanto abbiamo. Che cosa hai capito in questo film? Cioè, questi uomini che poi finiscono per uccidere le loro fidanzate o mogli quando capiscono che sfuggono loro o che le violentano. Le violentano anche psicologicamente. Sì, comunque sono morte poi dentro, una donna che è stata violentata, che è emotivamente morta. Sì. Come spiegano questi loro atteggiamenti? Ma per loro, io non sono una psicanalista, per quanto appassionata possa essere di psichiatria, come tu sai, però questi uomini non se lo spiegano, cioè non hanno le capacità, perché se così fosse non arriverebbero a fare tanto, no? Perché dentro ciascuno di noi c'è una rabbia, c'è una frustrazione che dobbiamo essere capaci di esprimere, cioè l'uomo è aggressivo, anche la donna, e tutto è riuscire a controllare l'aggressività e a canalizzarla in un modo piuttosto che in un altro. Queste persone non hanno questa capacità. È chiaro che va fatto un percorso di tipo culturale, di tipo educativo, e se mi posso permettere va fatto anche un lavoro dal punto di vista dello snellimento di tutto, per quello che riguarda invece l'aspetto giudiziario della faccenda, e quello che riguarda l'alleggerimento e lo sveltimento della burocrazia. Ossia, io parlo perché un mio carissimo amico è lo zio di Chiara, quella ragazza che è stata picchiata e che è stata in coma mesi e adesso è in riabilitazione, ancora non parla, e quindi io conosco abbastanza da vicino anche determinate situazioni. C'entra la burocrazia in questo senso? La burocrazia c'entra perché quel padre, la ragazza con un po' di problemi, aveva fatto più e più denunce. Peccato che queste denunce siano passate da una scrivania all'altra di tutto il sistema burocratico nostro e non siano mai arrivate a buon fine. Quindi questo ragazzo non è stato fermato prima perché la macchina è lenta, certo. Perché non funzionano le istituzioni in questo senso. La giustizia non può fare il suo corso perché questi poveri genitori sono impazziti dietro a queste denunce che passavano da una scrivania a un'altra, da una scrivania a un'altra. Elena Soffierici, le donne che si ritrovano vittime di questo amore malato stanno cominciando a capire che devono dire no, e che non si sta dentro un rapporto di coppia per insicurezza o pensando che l'amore è quello, non è quello. Stanno cominciando a capire che devono prendere la porta e andarsene dire all'altro vattene. Al primo schiaffo, alla prima alzata di mano, al primo sì. Guarda, io sto notando che adesso il 25 è la giornata contro la violenza alle donne, la giornata mondiale, ma io sto notando con grande gioia che in effetti quasi ogni giorno purtroppo per quante donne vengono uccise, però altrettanto si fa informazione, si comunica su questo tema. Infatti lo stiamo facendo anche noi qui, esatto, a Nessuno è Perfetto. Lo sto notando abbastanza, è un problema che sta un po' colpendo tutti molto da vicino, anche perché ahimè è un fatto di cronaca quotidiana questa. E quindi tu pensi che ci sia una maggiore consapevolezza nelle donne giovani, nelle donne, e mature, perché spesso si dice sempre, ma sai, mi ama, mi dipende, ama. Sì, ma infatti questo dipende anche dall'autostima, infatti bisogna lavorare non solo sui ragazzi, sui bambini, no? Ma anche sulle ragazze, cioè sviluppare molto l'autostima, lavorare molto sull'autostima della ragazza, che deve sentire e avere, come dire, introiettato molto bene dentro di sé il concetto che lei è una persona che ha un valore e che nessuno può in qualche modo colpire. Quindi che il rispetto per se stessa è la cosa principale. Molte bambine fragili, molte ragazze fragili, e io sono stata una di queste bambine, quindi parlo anche per conoscenza personale del problema. Io sono stata una bambina molto fragile, una bambina con una forte insicurezza, con una bassissima autostima, e spesso ho lasciato che mi si facesse del male. Spesso ho lasciato, non ho saputo difendermi, non ho saputo dire di no. Anche per questo io ho partecipato con tanta forza a questo progetto. Che cos'era nella tua stagione di inconsapevolezza e quindi di fragilità? Che cos'era che ti faceva, per esempio, restare con un uomo sbagliato? La paura di rimanere da sola, la paura di non essere accettata, la paura di essere abbandonata. Io ho vissuto anzi di separazione grandissime per tutta la mia storia familiare, quindi pur di avere uno straccio d'uomo accanto ero disposta a tutto, e questo è sbagliato. È molto, è profondamente sbagliato, ma questo derivava e dipendeva molto dall'autostima che avevo di me stessa. L'ultima cosa che vorrei chiederti è quando anche c'è stato. Guarda, Maria, scusami se mi permetto di dire, ma anche dalle piccole cose bisogna insegnare la parità, cioè non so, a tavola, no? Ancora adesso io vedo le bambine sparecchiano, cioè vengono, no? Viene insegnato loro, sì. I maschietti no, cioè sono piccole cose, ma invece è da lì che bisogna cominciare, no? Dalle cose piccole. Vorrei chiederti due cose in chiusura. La prima è: quando c'è stato dentro di te il declic? A che età e come hai scoperto che non dovevi più farti maltrattare? Ma guarda, è purtroppo tardi, molto tardi. Io ho iniziato con l'analisi a 30 anni ed è un percorso che non ho mai veramente interrotto, perché quello diventi una ricercatrice, no? Sei, diventi come e quindi ho fatto molti anni di analisi, ho fatto un buon percorso, poi a un certo punto mi sono resa conto che certi nodi non ero ancora riusciti a scioglierli. Io a tutt'oggi faccio fatica a dire: ehi, mi hai pestato un piede. Dico sempre: oddio, scusa, ma che per caso ho messo il piede sotto al tuo? No, è sbagliato, cioè questo, capito? E quindi io parlo, ma non è che sia proprio ancora bravissima. Certo, sono molto migliorata. Comunque, insomma, il declic è avvenuto quando hai conosciuto. Dopo anni e anni di analisi. L'analisi, è cioè, ecco. Io quando ho capito che veramente l'analisi aveva avuto i suoi frutti, quando di fronte ad un compagno che alzava molto la voce, hai detto, per molto, l'ho messo fuori casa. Ecco. E io lì quel giorno ho detto: oddio, ma allora sto guarendo. Ma mi sono venuti anni. Però solo per un'alzata di voce. È importante rendersene conto, poi gli anni che ci vogliono, però essere consapevoli che se uno alza la voce non lo fa perché è fatto così, no, lo fa perché non ti sta rispettando. Allora, non ti sta rispettando, ma è anche perché è il suo punto debole. Quindi bisogna cercare, cioè, qua ciascuno deve prendersi, c'è un'assunzione di responsabilità che deve essere di tutti, quindi le donne devono imparare a dire di no, gli uomini devono fare un lavoro sulle loro fragilità, cioè che anche loro si interroghino. E in fondo, come dire, succede per stare meglio insieme tutti. Sì. Io ringrazio Elena Sofia Ricci, che è nelle sale cinematografiche con L'amore rubato, un film corale tratto dal libro di Dacia Maraini. Grazie e buona domenica alla nostra Sunday Girl di questa settimana. Grazie. grazie, buona domenica a tutti. Nessuna è perfetta. Eccoci, bentornati, questo è il terzo blocco di Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Voi sapete che potete scrivere a nessunaeperfetta@radio24.it, potete telefonarci, potete scrivere su Twitter o su Facebook. Questa volta non è una lettera quella che vi leggo, non è una richiesta di consigli, ma è una telefonata che è arrivata alla nostra redazione e nella quale un'ascoltatrice che si definisce affezionata e che ci ha lasciato il suo nome, Marta, ci ha chiesto come mai non abbiamo ancora parlato del tema di cui invece tutti i media hanno parlato in questi giorni, cioè del femminicidio. Bene. Accontentata Marta, e con due esperti di grandissima competenza vedremo di capire di più del fenomeno e di quello che si sta facendo a livello legislativo. Buona domenica, benvenuti a Nessuna è perfetta, la senatrice Doris Lo Moro, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Affari Costituzionali del Senato e relatrice di una proposta per l'istituzione di una commissione parlamentare del Senato sul femminicidio. Buona domenica, senatrice. Buongiorno, buona domenica. E buona domenica al professor Claudio Mencacci, psichiatra, presidente della Società Italiana di Psichiatria e direttore del Dipartimento di Neuroscienze del Fatebene Fratelli di Milano. Buona domenica a lei. Buona domenica a lei e agli ascoltatori. Allora, senatrice, abbiamo già la legge sul femminicidio. Lei è relatrice adesso di una proposta che punta a istituire una commissione parlamentare del Senato su questo tema. A cosa serve? Guardi, ero relatrice anche della legge sul femminicidio. Il punto è che non sono cambiate le cose e che molto probabilmente, senza anticipare i risultati di una commissione d'inchiesta che nasce proprio per approfondire il tema, molto probabilmente c'è molto da fare sul piano culturale e da lavorare sulla prevenzione. Quindi non servono tanto norme penali o un rafforzamento della tutela penale, che pure sono cose necessarie, ma serve lavorare sulla prevenzione e quindi conoscere molto meglio il fenomeno, perché molto spesso ci si ferma all'episodio registrando la morte di un'ennesima donna, indagando sulle singole morti e complessivamente su quello che sta succedendo in Italia e oltre, probabilmente potremmo capire di più come bloccare questo fenomeno. Quando nasce un fenomeno vuol dire che quando si ripete vuol dire che c'è qualcosa che non va nella società intera, oltre che nei singoli che sono violenti, che sono criminali, che quindi commettono questi reati. Ecco, a me pare, e noi lavoreremo... mi pare che sia una utile iniziativa se punta a capire che cosa c'è dietro il fenomeno. Però, professor Mencacci, siccome è chiaro che quando un uomo uccide una donna o le fa del male psicologicamente o fisicamente, è perché è scattato in lui un problema che molto spesso dipende dal timore dell'abbandono. Le chiedo come si può aiutare la senatrice Lo Moro e la commissione? Possiamo psichiatrizzare un intero paese, un'intera generazione di maschi italiani? Come si può aiutare questa commissione della senatrice? Direi che la prima cosa è far comprendere che la violenza è un comportamento e non è una malattia. Queste persone non sono malate, queste persone hanno un iter interno di considerare la donna un oggetto di proprio possesso, quindi sono adibiti frequentemente a esercitare prepotenza, prevaricazione, sopraffazione. E la violenza di cui noi vediamo drammaticamente le conseguenze fatali, che non sono solamente quelle dell'omicidio, ma molte di queste donne oggetto di violenza anche di suicidio, sono le diverse tipi di violenza a cui sono esposte, dalla fisica, alla sessuale, alla psicologica, all'economica, al continuo stalking e alla serie infinite di conseguenze non fatali sulla loro salute fisica, mentale, apparato riproduttivo e quant'altro. Quello di cui ci dobbiamo rendere conto è che siamo di fronte ad un crescendo che viene da lontano, dove c'è la considerazione dell'altro, del partner, come non solo un proprio possesso, ma un oggetto che si può sopraffare, e quindi è giustificata la loro aggressività, che poi diventa violenza e quant'altro. E in questo senso, e nella legittimazione dell'aggressività e della violenza nei confronti della donna, di oggetto del nostro contrasto, non di psichiatrizzare. Certo, ma senatrice, spesso quando leggiamo di casi di donne uccise, leggiamo anche che queste donne avevano denunciato episodi di violenza che arrivavano dal marito, dal partner, da un ex fidanzato. Eppure non era stato possibile fermarlo. Perché, nonostante ormai siano trascorsi 3 anni da quando il governo ha varato il decreto antifemminicidio? Intanto sono d'accordo con quello che ha detto il psichiatra, sposo in pieno la sua tesi. Non a caso io ho parlato di criminalità, di delinquenza e non di malattia mentale. Poi le donne che denunciano sono comunque una minoranza, e esistono, ci sono molti casi di donne che sono state oggetto di violenza e di omicidio, che sono state uccise o comunque di una violenza efferata e che avevano già denunciato, ma la maggior parte delle donne non hanno intrapreso questa strada. La maggior parte delle donne ancora non denunciano, e questa è la cosa più grave che noi abbiamo cercato di contrastare, prevedendo anche che i maltrattamenti in famiglia e le violenze in famiglia possono essere portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria e dei servizi sociali anche da terze persone, perché questo potrebbe comunque portare all'allontanamento del coniuge o del partner dalla comune abitazione, o comunque al divieto di avvicinarsi all'abitazione della donna. Ma il problema è che non vengono allontanati, o comunque spesso poi la cosa rientra e la violenza continua. Certo, l'ultima donna uccisa per esempio sapeva di essere in difficoltà e di essere in pericolo, ma davanti al pianto di un bambino ha cambiato idea, nonostante avesse chiamato la polizia e fosse stata protetta. La verità è che non è facile capire, spesso nella situazione concreta non è facile capire se si è davvero davanti a un caso di violenza o a un caso di affetto esasperato. Io credo che l'affetto non c'entri niente, che dobbiamo aiutare le donne prevedendo degli eventi sentinella davanti ai quali, a prescindere dalla volontà della singola donna, si deve intervenire. Ecco. Per esempio, perché questo è il punto. La fermo, senatrice. Non usare violenza verso queste donne e portandole davanti a un giudice comunque, ma stabilire che davanti a degli eventi, davanti a delle circostanze, davanti a delle situazioni, ci debba essere comunque un intervento dello Stato. Vorrei proprio capire dal professor Mencacci quando una donna può interpretare seriamente un segnale di pericolo. Abbiamo apposta la lunga catena di quelle che sono le aggressioni verbali e poi quelle delle aggressioni agli oggetti. Ed è questa la prima escalation che si verifica frequentemente. Cioè, prima ti insulto, poi comincio a rompere piatti e bicchieri. Poi vi è il crescendo. E il crescendo è quando dalla violenza, che può andare dallo spintone allo schiaffo, cresce sempre di più fino alle violenze più efferate. Il problema è che quando accade questo, cioè la fase di tensione crescente, poi l'episodio di violenza, poi segue sempre il periodo della gentilezza e della contrizione. Allora, il messaggio che va dato è che non c'è nessuno giustificazione alla violenza, e che quel pentimento e quella contrizione che poi l'aggressore fa è assolutamente inutile e falsa, perché nuovamente ci saranno episodi ripetuti e soprattutto di una violenza crescente. Cioè, la modalità di esprimersi attraverso aggressione prima e violenza poi diventa un modo di comunicare, ma soprattutto un modo di sopraffare. Il messaggio quindi quindi fin dall'inizio è laddove un partner interrompe qualunque dialogo con atti di violenza fisica e dobbiamo tenere conto anche degli altri, beh, lì è un segnale già molto forte che la relazione, in primo luogo la donna deve imparare a poterne parlare, a rendersi conto, non deve vergognarsi purtroppo delle umiliazioni che a volte sono gli stessi parenti a portare avanti, e anche legare al fatto di poter svelare questa situazione di violenza, e se hanno figli hanno sempre paura che ovviamente la violenza cresca e vadano coinvolte anche loro, ma si può fare e si deve interrompere fin dall'inizio, quindi anche all'inizio di fidanzamenti. Infatti, ci fermiamo per qualche minuto, torniamo tra pochissimo. Eolo, internet ultra veloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Continuiamo a parlare di violenza contro le donne e di sessismo. Senatrice, lei ha sempre difeso le donne, anche quando faceva politica nella sua terra, in Calabria, che è un sud molto duro e che ha delle campionesse, delle donne come lei, piene di forza e di autonomia, ma spesso anche condizionate dall'ambiente nel quale vivono. Quanto pesa il fattore culturale nella lotta al femminicidio? Credo che sia fondamentale, lo dico anche per esperienza diretta, anche al di fuori della politica. Ricordo un caso, per esempio, di omicidio che io ho seguito come magistrato, in cui una donna era stata uccisa, colpita così duramente, ed era stata uccisa davanti ai due figli, che chiedevano l'arresto del padre, ma il giudice del riesame scarcerò quell'uomo, sostenendo che la violenza era solo contro la donna e che quindi non si trattava di una persona pericolosa socialmente. Io da questa esperienza, ecco, da questo caso che ho vissuto personalmente da giudice, perché prima questo mestiere facevo, ho capito che il problema culturale riguarda l'intera società, non riguarda soltanto il violento e il singolo che poi diventa un criminale, riguarda la società che spesso giustifica in qualche modo la violenza contro le donne perché non accetta la presenza di donne e uomini che si confrontano in maniera paritaria con rispetto reciproco. Quindi questo è un virus che riguarda tutti, poi naturalmente la responsabilità maggiore è di chi diventa violento, però io credo che vada contrastato fortemente, soprattutto in ambienti di sottocultura, anche se i femminicidi non avvengono sempre in ambienti di sottocultura, anzi però, avvengono tranquillamente anche negli ambienti altoborghesi. Ci sono stati casi di giovanotti della Milano Bene che hanno ucciso le loro fidanzate e sono stati poi scarcerati dopo qualche anno. Direi che vivono in famiglie che non potremmo definire ambienti sottoculturali. Il caso a cui facevo riferimento io, sì. Comunque la cultura che può essere la soluzione, il punto è che queste sono parole, la Commissione dovrà cercare di capire, e quindi questo è un lavoro che dovremmo ancora fare ovviamente, cosa significa questo, cosa significa in una società come la nostra che sembra che comunque ha fatto passi in avanti notevolissimi. Io ho 60 anni, da quando ero ragazza era tutt'altro l'ambiente, ma cosa significa oggi per una donna pretendere rispetto e parità, cosa significa per la società e come costruirla questa parità nei comportamenti concreti che devono riguardare le famiglie, devono riguardare le coppie, ma devono riguardare più in generale la società. Certo, perché il messaggio è quello che viene anche da un padre al proprio figlio maschio. Senatrice, vorrei approfittare della presenza del professor Mencacci per aiutarla in questo nuovo ruolo, in questa commissione. Professor Mencacci, se lei dovesse dare un consiglio alla senatrice Lo Moro di una cosa da evitare in questa commissione e invece di qualcosa concreto da utilizzare subito per far sì che questa sia una commissione davvero utile. Direi da evitare, ma credo che nessuna commissione, so con quanta serietà lavorano le commissioni in Senato, è quella di togliere comunque e sempre qualunque giustificazione alla violenza e quanto invece sia fondamentale l'impianto fin da partire dalle scuole, dell'educazione dei maschi, alla non imparare a, come dire, colpire in nessun modo, e quindi è un percorso generazionale che va iniziato fin da subito. Quello che va perfezionato fondamentalmente, anche se dei passi notevoli sono stati fatti, soprattutto nella rete sanitaria e ospedaliera, con i percorsi rosa, le camere che hanno addestrato sempre più i sanitari a individuare quella paura di segnalare o riconoscere tutti quei segni che stanno poi alla base di una violenza intima, che è in assoluto la più frequente, è quello di perfezionare sempre di più le possibilità di come allontanare le persone dalla situazione drammatica di un percorso sia in emergenza, quindi di come attivare una rete amicale di solidarietà, di inserimento in strutture, sia ovviamente del percorsi anche programmati, perché è indispensabile allontanare in questo senso la vittima da un carnefice. L'allontanamento fisico, come aiutare le persone in difficoltà e fare in modo che questo accada davvero. Io ringrazio la senatrice Doris Lo Moro, il professor Claudio Grazie Mencacci, che oggi ci hanno aiutato a discutere di un tema lontano da quelli che normalmente affrontiamo a Nessuna è Perfetta, ma un tema importante che non si poteva certamente ignorare. Buona domenica a entrambi, buona domenica a voi che ci avete seguito.